Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, voglio dirvi che abbiamo Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Possiamo partire. Aggressività, un impulso da educare. Sigarette elettroniche. Dottore, lei che ne pensa? Ai fornelli si sta meglio in coppia. Oggi è il secondo martedì del mese e noi come al solito siamo in compagnia delle nostre mamme blogger. Yolanda, benvenuta. Grazie, benvenuti a tutti. Veronica. Ciao e buona giornata a tutti. Allora, care le mie mamme, come si dice qua a Milano, preparatevi perché oggi parliamo di pugni, graffi, spintoni, parolacce, minacce, litigi furibondi che scoppiano a volte proprio come un fulmine a ciel sereno. Parliamo di tutte le volte che i nostri deliziosi angioletti si trasformano in vere e proprie iene. Infatti, in una parola, parliamo di aggressività tra fratelli, compagni di gioco, ma anche di aggressività dei bambini nei confronti di mamma e papà. Che dateci un po' il polso della situazione. Come funziona a casa vostra? Chi inizia? Ma io ho un bambino, Veroni, che ha quasi 4 anni, quindi ci siamo in pieno. Nel senso che il bambino è bravo, non è che ci dà delle preoccupazioni, anche a scuola le maestre sono tranquille, però effettivamente ho notato che ultimamente tra maschietti, quando giocano, si passa le mani con una facilità incredibile. Poi la cosa diventa imbarazzante perché ci sono di mezzo i genitori. Quando tu critichi il figlio di un altro perché ha picchiato il tuo, naturalmente sgridi anche il tuo. Certo, fai finta. È una forma di critica nei confronti del modello educativo dell'altro genitore. Non più tardi di domenica pomeriggio sono andata a una festa, c'era anche una bambina di neanche 2 anni che continuava a menare la mia stessa età. Imbarazzantissimo. Non è solo un discorso di bambini, è anche un discorso di relazione tra genitori. Comunque confermo, aggressività a volte anche nei confronti dei genitori quando sgridati. Dimmi un po' cosa succede a casa tua invece. Ma in questo momento l'aggressività è da parte del fratellino di 9 anni verso la più piccola di 5, cioè proprio un continuo metterla, stuzzicarla, andarle a rompere le scatole se gioca qualcosa. Insomma, fa il fratello. Fa il fratello, ecco, però in modo veramente disturbante, insomma, ecco. Allora, questo è il tema più votato su blogmamma.it, segno che evidentemente il problema è particolarmente sentito e in alcuni casi subito dai genitori che non sanno che pesci pigliare, fare finta di niente cercandomi le giustificazioni, è vivace, è piccolo, è arrivato il fratellino, ha avuto da poco l'influenza, ha bisogno di sfogarsi, metterlo in castigo, punirlo. E che dire invece se è il nostro bambino a diventare vittima, come ci raccontavi tu, dell'aggressività altrui? Come aiuta? Aiutarlo, incentivare la restituzione, rendigli pan per focaccia, oppure chiedere il sostegno, la collaborazione dell'altro genitore, diventa, come ci raccontavi, magari un po' anche difficile. Insomma, di tutto questo, di gesti e di parole, perché i bambini sanno essere aggressivi non solo tirando capelli, mollando pugni, facendo lo sgambetto, ma anche con le parole, parleremo oggi con 3 esperti. Perché ho chiesto Manforte? Perché ho scoperto che nonostante gli psicologi affermino che l'aggressività, come suggerisce l'etimo, ad gredior, andare verso la vita, verso la realizzazione di sé, verso l'autonomia, sia una pulsione sana, oserei dire fisiologica, quasi necessaria, aggiungono, gli addetti ai lavori raccomandano di non sottovalutarla, ma di incanalarla ed educarla, cominciando con l'aiutare il bambino a riconoscere queste tensioni dentro di sé. Allora, come capite, cari amici, che potete già intervenire all'800 24 00 24, inviando messaggi al 349-238-6666, abbiamo tanto da raccontarci e voglio presentarvi i nostri esperti che ci condurranno in questa trasmissione. Do il benvenuto a una new entry, la dottoressa Sara Micotti, psicoterapeuta dell'età evolutiva presso il Centro Benedetta Dintino di Milano. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Benvenuti in questo circolo di mamme. Ma abbiamo naturalmente anche un papà, Alberto Pellai, come spesso accade ci accompagna in queste trasmissioni con le mamme, fa il papà, ma naturalmente l'Alberto fa anche l'esperto di età evolutiva. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. In linea con noi non poteva mancare la nostra dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Dottoressa Trinci, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo subito con esempi di vita vissuta. Dottoressa Micotti, partirei dall'aggressività verso gli altri. Abbiamo la lettera di Antonella, c'è scritto da Roma, ma tutto il mondo è paese, quindi sono certa che qualcuno si riconoscerà. Provate e sentite. La scorsa settimana sono stata chiamata dalla maestra di asilo del mio bambino Paolino di 3 anni e mezzo. Mi ha informato che Paolino picchia tutti, spesso e volentieri. A me è cascato il mondo addosso. Paolino è un bambino dolcissimo, a casa è tranquillo e non dà problemi di sorta. Spesso a me fa le coccole quando io le faccio a lui. E perché allora alla scuola materna si è trasformato in un wrestler in miniatura? E ora che faccio? Dottoressa Micotti, un angelo che diventa un diavolino. La mamma dice, ma com'è possibile, con me è così gentile? Allora, prima di tutto, questa mamma potrebbe ringraziare le insegnanti della scuola materna che la vogliono aiutare a conoscere Paolino nella sua interezza. Un bambino può mostrare alcuni aspetti di sé a casa e altri aspetti di sé nella vita fuori di casa, ai giardini, dai nonni o alla scuola che frequenta. Per cui, primo punto, collaborare con curiosità, creare un'alleanza con la maestra dell'asilo. E poi proviamo al bambino cosa dire. Paolino, la tua maestra mi ha detto che meni come un fabbro, eh? Direi che ancora prima che parlare a Paolino, direi alla mamma di parlare con se stessa, provare un po' a riconsiderare il suo bambino. Un bambino che non faccia mai capricci a casa deve preoccuparci, così come uno che ne faccia troppi, perché, come dicevamo prima, l'aggressività è una componente naturale della personalità umana e si muove ogni volta che un bambino incontra un limite, un'attesa, un viene divieto, contraddetto, no? Certo. E quindi forse a casa Paolino incontra un ambiente molto accomodante, molto capace di ascolto e di empatia, e magari un ambiente proprio totalmente calibrato su di lui, troppo che... misura di Paolino, poi sì. Va all'asilo. Andiamo invece ad un altro spunto, e questa volta mettiamo al lavoro la dottoressa Trinci, perché dottoressa, ci sono gesti ma anche a parole che a volte sono ancora più aggressive, feriscono soprattutto se sono rivolte a noi, intesi come mamme o papà. Andiamo a sentire la prossima lettera. Io e mio figlio di 7 anni all'edicola. Lui vuole comprare tutto. Io gli dico che per oggi si comprano solo 2 pacchetti di figurine. Lui alza la voce e dice che vuole anche un giornalino. Io rispondo, non se ne parla neanche. Lui urla più forte. Io cerco di fermarlo con gli occhi e la forza delle mie braccia. Lui comincia a scalpitare e urla di fronte a tutti. Ti odio, mamma, ti odio! A quel punto tutti mi guardano e io divento rossa come un peperone. Avrei voluto sprofondare sottoterra. Non è la prima volta che mio figlio mi urla questa frase. Sono una mamma in crisi. Perché mio figlio mi ha detto così? Dottoressa Trinci, questo di Paolino ha poco. È un Paolino al contrario, questo. Ma chissà che invece poi la radice non possa essere anche la stessa. No, mi veniva in mente quello che diceva all'inizio Veronica, mi sembra, rispetto, perché non avete detto il nome, se era Veronica o Yolanda, rispetto ai rapporti fra genitori anche, sì, che scattano. Perché mi domando se intanto quando succede la cosa all'edicola, se questa stessa reazione della mamma sarebbe stata così dolente se fosse stata in casa da sola con il bambino, in quanto sicuramente c'è un aspetto che fa dispiacere quando un bambino dice queste cose in relazione anche all'investimento che si è fatto sul bambino. Quindi se una mamma dà tanto, se una mamma ci mette tanto di sé nel proprio figlio ed è molto dissimmetrico rispetto a quello che il bambino rende, può soffrirne, ma anche a questa mamma consiglierei davvero di guardare un po' dentro di sé. Poi rispetto, quando queste cose succedono in pubblico, direi che si amplificano, perché uno ha molta paura del giudizio che viene dato su di lui o su di lei come genitore rispetto a tutti quelli che ha intorno. Certo, questo è vero, ne abbiamo parlato anche riguardo ai capricci, vi ricordate mamme? Certo. Che i capricci di fronte, c'era naturalmente anche la dottoressa Trinci, di fronte a terzi... Anche volevo dire che anche la mia bambina spesso, insomma, quando la vado a prendere all'asilo mi dice vado dall'amichetta e io dico no, guarda, non si può. Mamma, io ti odio. E tu? Io niente. Arriva la vecchia. Faccio finta di niente e vado avanti. Veronica. Mio figlio è carino, dice: mamma, io non voglio più giocare con te. Ecco. Non ti abbraccio più. Con Alberto invece vorrei approfondire un tema a lui caro, insomma lo trattiamo bene, l'unico maschio, il tema della cosiddetta aggressività assistita. Alberto, tradotto, perché questa è una parola che usate voi. Ma la violenza addetti... che vediamo in TV, direi che poi è quella più frequente, per un bambino potrebbe anche significare violenza o aggressività che vede nella sua famiglia, se per esempio la mamma e il papà sono fortemente in conflitto e hanno addirittura comportamenti violenti l'un l'altro. Allora, abbiamo anche per te un piccolo contributo, se no facevamo le preferenze, andiamo. Il boogeyman ha messo all'angolo l'atleta inglese, poi è pronto per caricarlo. Power slam! E John Morrison, con un braccio teso, viene fatto accomodare fuori dal ring. John Morrison prova ad infierire nuovamente nei confronti di Dreamer, lo va a prendere, lo rimette dentro al quadrato, mentre rivediamo prima come lo ha fatto letteralmente ruzzolare via, lo ha fatto volare in aria. Back body drop da parte dell'innovatore della violenza, che poi getta altra benzina sul fuoco, che sulla terza corda viene fatto precipitare. Alberto, buttati. Precipitare, infuriare, infierire, innovatore della violenza, benzina sul fuoco. Secondo me già il fraseggio la dice lunga. Anche la voce un po'. Esatto, cioè secondo me è proprio un po' caricare a molla il telespettatore. Ed effettivamente, per esempio, questo è il caso del wrestling. Io credo che sia uno spettacolo da una parte molto attraente per i bambini, dall'altra parte, se lo guardano da soli, uno di quegli spettacoli che ti carica a molla. E non sto parlando con molti genitori o molte insegnanti, viene poi effettivamente scaricato nel gioco con gli altri bambini, rimane qualcosa da provare a fare. E bisogna dire che soprattutto i bambini della scuola materna, che non hanno ancora acquisito lo schema corporeo, sono proprio in costruzione rispetto alla capacità di controllare forza, potenza dei loro movimenti, si buttano in un gioco imitando il campione del wrestling e spesso fanno danni. Allora, gentile mamme all'ascolto, papà all'ascolto, abbiamo disegnato un quadro con le possibili forme di aggressività che possono essere presenti nella vita dei nostri bambini. Potete scrivere, chiamarci per raccontare come sta andando nelle vostre case, cosa fate anche per crescere bambini non violenti, non aggressivi, bambini sereni, no? Giustamente pacifici, anche con quel po' di aggressività che abbiamo detto aiuta a crescere. C'è un segreto che volete condividere con le altre mamme all'ascolto, raccontarlo a Yolanda e Veronica, naturalmente loro sono le nostre mamme e ci racconteranno cosa fanno nelle loro case, scriveteci, chiamateci. Ho anche un'altra domanda per voi: quali sono i fattori, le situazioni che scatenano l'aggressività nei vostri bambini? Potete chiamarci 800 24 0024. Oggi abbiamo una missione: scrivere, tracciare una mappa dei fattori scatenanti, ma soprattutto vogliamo scrivere anche un decalogo insieme per affrontare in modo efficace e costruttivo questa aggressività che, devo dire, è presente in tutti i bambini, anche noi quando eravamo bambini e anche adesso che non lo siamo più. Una mela al giorno. Adesso apriamo una parentesi, cambiamo argomento, parliamo delle sigarette elettroniche. Si comprano su internet, in molte farmacie, tabaccherie, rivenditori. Il Ministero della Salute, l'abbiamo letta, ha già avviato qualche mese una serie di controlli, ha chiesto ai NAS di effettuare anche sequestri cautelativi per accertare se il contenuto di queste cartucce, indipendentemente dal gusto, perché possono avere dei gusti differenti, corrisponde a quello indicato sull'etichetta. Noi, nell'attesa di avere tutte queste risposte, cerchiamo invece di raccogliere qualche informazione in più su queste finte bionde, possiamo chiamarle così. In linea con noi non poteva mancare il dottor Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta. A lei le bionde non piacciono? E le no. Finte bionde? No, mi piacciono le bionde, preferisco le more. Questo lo sapevo. Comunque, non mi piace soprattutto chiamare bionde le sigarette. No, le sigarette non mi piacciono. Mi piacciono quelle manuali, non mi piacciono neanche molto quelle elettroniche. Comunque mi piacerebbe saperne di più, ecco. A proposito di una cosa di cui si parla molto in questo periodo. Senta, come funzionano? Ma questa già è una domanda a cui non posso rispondere in maniera completa come mi piacerebbe. Io sono un medico, ma quando lei mi invita, e questo è per me anche un grande orgoglio, una grande forza, di cercare di parlare a nome dei fumatori. Io sono dalla parte dei fumatori, quindi sì. Il fumatore, quando usa una sostanza nuova, un prodotto che ha la speranza di aiutarlo a smettere di fumare, e spesso quando esce una novità, comunque, questo c'è uno studio anche che l'ha dimostrato, molti fumatori comunque ci provano, e alcuni ci riescono anche, perché è sempre l'aspettativa, magari per le cure miracolistiche, che però sì. Per qualcosa di realmente funzionante, è giusto però che sia sufficientemente informato sulla reale efficacia, sulla totale innocuità di un presidio che si vende anche in farmacia. E questo a livello del Ministero della Salute ancora invece è stato contestato, e quindi ci sono in corso ancora degli accertamenti. Gli studi che sono stati finora effettuati sono controversi, sia sulla teorica efficacia che soprattutto sulla totale innocuità di queste sostanze assunte sia attivamente in chi le usa sia passivamente in chi ti sta di fronte. Però, dottor Boffi, chi non riesce a interrompere quella gestualità che spesso accompagna, no? Segna il piacere di fumarsi una sigaretta, queste sigarette elettroniche potrebbero in qualche modo rappresentare un'alternativa, no? Sicuramente, diciamo che nella grossa categoria delle cosiddette terapie placebo, no? Che possono andare dall'agopuntura, all'ipnosi, all'auricoloterapia, questa è quella che ha più appeal, perché ricorda non solo nella gestualità ma anche nel gusto, in questa emissione anche di pur vapore, non combustione, però vapore che ricorda effettivamente molto la sigaretta, quindi è quella che ti dà più l'illusione di continuare a fumare, diciamo così. Sì. E sul fatto dell'illusione io non ho nulla in contrario, perché non ne faccio assolutamente, lei lo sa, un discorso moralistico sul fatto di essere o meno fumatori. Per me il fumo non è assolutamente un vizio ma una dipendenza. Per cui tutto quello che può aiutare, anche solo a livello psicologico, a liberarsi dei danni alla salute che il fumo provoca, a me funziona. L'importante è che venga assunto con la consapevolezza che non ha finalità terapeutiche, perché o non contiene nicotina, che noi sappiamo è la droga che è capace di farti star male se poi la sospendi bruscamente, no? Quella contenuta nelle sigarette, o non la contengono proprio, oppure ne contengono in tracce minime, e quindi i prodotti che già esistono in farmacia, che sono a base di nicotina anche per vie inalatorie, i bocchini inalatori, contengono invece una quantità di nicotina testata. È vero che hanno meno appeal, meno gusto, sono meno appariscenti, diciamo, e gradevoli per il fumatore, perché non emettono neanche vapore, però forse ti aiutano un po' a ritagliarti anche degli spazi nella giornata senza sta benedetta sigaretta, perché prima o poi quello deve essere il destino anche di una riduzione del fumo, mirare a una cessazione definitiva. E quindi creare un prodotto che sia proprio sempre più simile alla sigaretta, non so quanto alla lunga possa essere utile anche ai fumatori. Dottor Boffi, noi oggi parliamo di aggressività. I primi giorni, quando uno smette di fumare, veramente diventa, no? Gli si affilano i canini. Qua bisogna, che consiglio può dare? Tenete duro? Sì, vivere un po' alla giornata, pensare anche alle cose positive, alla felicità che possiamo dare a noi stessi e anche agli altri, magari inconsapevolmente, raccontando il giorno senza fumo che si è vissuto, l'ora senza fumo. Ecco, così possiamo rilanciare anche il nostro forum, che è sempre aperto e sempre moderato dal dottor Boffi. Quindi oggi invito gli ascoltatori che vogliono magari scrivere le loro esperienze, le loro emozioni dei primi giorni senza fumo. Dottor Boffi, grazie, buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. Stanno già arrivando molti sms sull'aggressività, ne erano arrivate anche alcune sull'aggressività dei primi giorni, di quando uno smette proprio di fumare, ma noi oggi parliamo di chi non dovrebbe fumare, sono i bambini, almeno loro. È meglio che intervenga. Questi sono i giocattoli, ok? Uh-huh. Alcuni sono miei, alcuni sono tuoi. L'unica differenza è che tutti i giocattoli belli sono miei. E funziona? Tu hai giocattoli scemi da bambini piccoli, capito? Mi piace. Lo credo bene, no? È un giocattolo da adulto. Posso vederlo? Me lo presti un momento? Ma se sei appena nata vuoi subito arrivare ai giocattoli importanti? Ma sei matta? Lui è sempre così cattivo con me. Ma insomma, io sono grande, hai capito? T'ho la palla. T'ho detto, gioca con la palla. Non prendi, mi piacciono le palle! Non sono un frignone. Sì che lo sei invece, questa è tutta opera di mamma, frignone. Smettila di chiamarmi frignone. Non aveva detto che non avrebbero divorziato? Sì. Allora mamma è una bugiarda. Io non sono un frignone, hai capito? Mi stai facendo male. Mi stai davvero facendo male. Aggressività, l'abbiamo titolato questa puntata un impulso da educare, perché Alberto, mi confermi, è un impulso. È proprio una pulsione che nasce da dentro e che tutti noi abbiamo fin proprio dal momento della nascita. Maria Teresa ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno. Io sono una nonna, sì? Come dicevo prima, ho tre nipoti. Due sono fratello e sorella, sì. Un altro invece è il figlio di un altro figlio, sì. Allora, il maschietto, quello che ha la sorella, c'è solo un anno di differenza tra i due, sì. E lui è molto... Proprio lui non rispetta le regole, non riesce a stare alle regole. E alla fine lui è uno che oltretutto insiste, e con i tempi che hanno oggi i genitori sempre di corsa, cosa succede? Che lui sa tirare la corda al punto tale che poi alla fine lui ottiene quello che voleva, che era, gli era sempre stato negato. Logicamente con me, io ho un po' più tempo a disposizione, invece mi impunta e no. E allora lui capisce, quindi sa... Ad esempio con la sorella, al mattino li accompagniamo a scuola, sì. E gli si fa parlare questi due bambini, allora racconta tutto, lei ormai lo sa, è proprio brava, nel senso che lascia che prima parta il fratello a dire quello che deve dire. Lui sembra che abbia finito, perché a un certo punto fa una pausa, c'è un punto, allora inizia lei. La interrompe immediatamente e di nuovo... Allora, questa nonna ci descrive una situazione abbastanza frequente fra i fratelli. Allora chiederei ai nostri tre esperti e poi un consiglio anche dalle mamme che magari questa situazione la stanno vivendo, per raccontarci come la state gestendo. Dottoressa Micotti, quindi un fratello che in qualche modo schiaccia un po' la sorella più piccola, che la nonna dice molto brava, ha già capito tutto, lo lascia parlare e poi cerca di ritagliarsi un po' di spazio. Avere soltanto un anno di differenza per due bambini è una situazione emotiva difficile, e lo è anche per i loro genitori, perché si trovano a vivere dei sentimenti di esclusione e di rivalità quando il legame di attaccamento non è, nel caso del primogenito non è ancora ben sviluppato, e il secondogenito deve adattarsi a uno spazio ridotto. Certamente due anni di differenza sono una misura emotivamente più facile da gestire per genitori e bambini. Cosa suggerisce? Poi passiamo alla dottoressa Trinci. Noi vogliamo dare anche delle indicazioni, delle istruzioni per l'uso, insomma. Ma certamente dal punto di vista pratico un accorgimento è quello di riuscire a ritagliare dello spazio speciale per ciascun bambino almeno una volta alla settimana, cioè che la mamma dedichi un fine pomeriggio a un bambino affidando l'altro alla nonna e un pomeriggio all'altro, di modo che proprio sentano almeno in quei momenti un'attenzione esclusiva e una comprensione esclusiva. Anche perché continuare in questa, no, con questi piccoli, no, di litigi, alla fine diventa proprio uno stile di comunicazione tra i bambini. Meglio interrompere. Dottoressa Trinci, lei che dice? Sono perfettamente d'accordo. Mi sembra tra l'altro che un'indicazione esatta venga dalla nonna in questo caso, che è riuscita a mettersi in contatto con quelli che sono poi anche i ritmi dei ragazzini, no? E quindi che su questo si può costruire qualcosa, cioè vedere chi per esempio per primo la mattina desidera fare una cosa, chi desidera farne un'altra, e cercare come genitori di conciliare i ritmi della famiglia con quelli che sono i ritmi, anche il carattere, la personalità dei bambini, fermo rimanendo che io condivido moltissimo quello che ha detto adesso la dottoressa Micotti, e lo vedo proprio nella pratica clinica quotidiana come sia importante per i bambini, soprattutto quasi gemellari, perché un anno anno e mezzo di differenza è veramente poco, che i genitori trovino degli spazi per loro, portarli una volta per esempio a cena fuori in due, loro due soli, eccetera eccetera. Io lo faccio ancora adesso con le mie. Stavo pensando, Alberto, quanti giorni deve avere la settimana per Alberto Pellai e sua moglie, avendo quattro figli, se devono sempre diversificarli, ma questo è un problema della famiglia Pellai. Yolanda, Veronica, vi siete mai trovati a dover punire un bambino? Magari vi è scappata qualche volta la pazienza? Parliamo anche... Esatto, sono Yolanda. Più che qualche volta. Devo dire che delle volte ti tirano proprio un po' fuori dai gangheri, anche perché bisogna sempre dirigerli, no? Magari arrivi che c'è questa baruffa in corso e allora probabilmente sbagliando si alza un po' la voce: fermi, cosa fate? Insomma, e si cerca di dirigere un po' chi ha ragione, poi uno cerca di alzare la voce più dell'altro, ragione io, ragione è. Quando i genitori si buttano in mezzo, quando ad esempio due bambini si stanno menando, fratelli, il genitore poi interviene e alla fine uno dei due bambini dice: ecco sì, ma tu tieni le parti sempre a lui. Ci ho preso, Veronica. È una cosa molto significativa recentemente a cui io non avevo dato nessun peso, e poi invece sono stata chiamata addirittura dall'asilo per parlare di questa cosa. Oh, mamma. Allora, premessa, ma è una stupidata, solo che è proprio un esempio calzante. Allora, i miei figli hanno 22 mesi di differenza, sono maschio e femmina, quindi non è così difficile gestirli perché hanno questa identità di genere, insomma, che aiuta. Ognuno ha la sua personalità e io sono confortata perché faccio come ha detto la dottoressa: ho la mezza giornata con uno e la mezza giornata con l'altro, quindi sto tranquilla. La bambina per sbaglio ha rotto un carillon con acqua, sapete quelle cose con la neve dentro, no? Del bambino, ma non l'ha fatto apposta. Io lì per lì sono stata molto assorbita dal fatto di dover pulire una cosa pericolosa e non ho sgridato sufficientemente la bambina, evidentemente, per la cosa che aveva fatto, sapendo che non l'aveva fatta apposta. Il bambino ha pianto tantissimo e l'ho consolato. Va bene, allora il giorno dopo il bambino è andato all'asilo, la prima cosa che ha raccontato alle maestre era che la sorella gli aveva rotto questo giocattolo. Sì. Va bene, fine della trasmissione. Vado, sono stata chiamata al pomeriggio dicendo che il bambino aveva pianto tutto il giorno lamentandosi di questa cosa, al che mi hanno buttato lì come interpretazione che io non avevo permesso al bambino di sfogare la sua aggressività nei confronti della sorella e non l'avevo sgridata a sufficienza. Oh, Alberto. Forse era vero. Alberto, mi sembra un po' troppo. No, io sono un po'... un po' tagliata col piulet. Rimane effettivamente che... questo dato di fatto che poi il bambino è stato male a lungo il giorno dopo e ha portato in uno spazio che non era quello della famiglia un disagio che effettivamente probabilmente mi hanno detto non è stato... ha pianto tutto il giorno. Io ci sono rimasta e lei è una mamma cattiva. Stefania dalla provincia di Terni, buongiorno Stefania. Buongiorno. Cosa si fa a casa sua? Si litiga? Si fanno i capricci? Spintoni? Assolutamente sì. Ho due bambini, uno di 4 anni e il più piccolo di quasi 2 anni. La domanda che volevo fare era a proposito di quello più piccolo, che quando diciamo io ritorno a casa dal lavoro, lui manifesta molta gioia nel vedermi, ma questa gioia sfocia anche in aggressività, quindi diciamo mi prendo dei pugni, degli schiaffi. Sì. E di questo volevo chiedere un po' alle persone in studio. Allora, Alberto mi ha fatto segno con la manina, vuol dire che vuole parlare lui. Ecco, Alberto, allora. Questa è una situazione molto molto comune, perché soprattutto quando si torna a casa i nostri figli ci stanno aspettando, per loro è un'eternità. E devo dire che una delle cose che ho imparato, quando mi riesce, è che dobbiamo tornare a casa e dare a loro la percezione che siamo tutti per loro, per 10 minuti, però proprio staccare da tutto il resto. Per cui lo dico proprio anche alle mamme, consiglio: non buttatevi subito sui fornelli, sulla cucina, sulla pulizia, sul mettere a posto la spesa. Entrate in casa, sedetevi per terra sul tappeto e lasciate che i vostri figli vi vengano intorno. Questa... anche se ti mordono. È proprio un'esplosione. Sì. Mamma, sei arrivata ed era un'eternità che ti aspettavo. Ti a quel baci. Punto potete proprio ribaltare mentre loro vi morsicano, voi li coccolate e improvvisamente quel tigrotto diventa un magnifico. Come si fa con i cuccioli di cane? Perché no? Ecco, 824 0024. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Parleremo anche di una aggressività che si manifesta nell'adolescenza. Arrivano molti messaggi di adolescenti che, arrabbiati con l'amorosina, scagliano per terra caschi, iPod, insomma hanno veramente degli sbotti di radanno, dei pugni anche sul muro. Io mi ricordo una volta ad un pronto soccorso, tanto che portavo mia figlia, ho trovato questo bel ragazzone che aveva appunto questa mano gonfia e mi ha detto: sì, ero arrabbiato con l'amorosa e ho dato un pugno sul muro, adesso che mi sono ricordata. Poi non so più, non ho più avuto notizie di lui. Secondo me lei l'ha piantato. Ecco, siamo qua. Peccato che insomma sta per finire, perché eravamo sul buono. Allora saltiamo un po' avanti d'età, dottoressa Micotti, di questi ragazzi. Sono arrivati tutti messaggi con ragazzi, quindi uomini, giovani uomini. Sulle ragazze violente perché il ragazzo le fa arrabbiare non ne ho, ma questo non vuol dire che il problema non esista. Comunque, adolescenti e bambini, sembra che ci sia qualche continuità, no? Sì, mi sembra molto importante che gli ascoltatori abbiano avuto questo sguardo prospettico. Il capriccio nel bambino e il gesto di ribellione dell'adolescente appartengono alla stessa famiglia di manifestazioni emotive. Il capriccio però è qualcosa di più delicato, di più contenibile, è un capo che diventa ricciuto, una testina che diventa turbolenta. La ribellione è qualcosa che ha a che fare con la guerra, bellum, perché il corpo dell'adolescente è grande, forte, è in grado di farsi e fare male. E quindi è davvero importante porre mente per tempo all'aggressività dei nostri bambini e aiutarli a governarla prima che diventino persone umane con una forza importante, e a quel punto è più difficile per loro contenersi. Lo strumento che abbiamo è sempre quello della parola, cioè mettere in parola le emozioni che si stanno vivendo, sia che si tratti di un bambino arrabbiato, sia che si tratti di un adolescente furibondo. Gli adolescenti li trasferiamo in questa casa, non è un albergo, perché questo è uno spazio per mamme con bambini piccini, cioè noi arriviamo fino alle medie, ecco. Però su dell'aggressività degli adolescenti diamo solamente un consiglio per i tanti sms che sono arrivati. Dottoressa Trinci, un consiglio rapidissimo, perché ho Claudio dalla provincia di Milano e Dario da Napoli che ci aspettano. Dunque, credo che un consiglio rapidissimo non si possa si potrebbe dare. Fare a battuta, agitare bene prima dell'uso, citando il sottotitolo del film Genitori e figli. Credo che sia davvero difficile, anche perché io ho l'impressione che sia importante per tutti noi abituarsi a che abbiamo di fronte una specificità, ecco, di ragazzo, di ragazza. Terrei per buono il consiglio dato or ora di cercare di aiutarli a trasferire in parole, da un lato. Ai genitori direi anche di imparare davvero a non drammatizzare e soprattutto anche a cercare di stare in contatto fra i loro genitori, perché se una mamma va in crisi perché un bambino di 2 anni le dice ti odio, insomma voglio dire, o cose di questo genere, forse davvero siamo di fronte a dei fenomeni di eccessiva amplificazione, perché certo. Facciamo circolare di più le notizie, incontriamoci di più fra mamme, babbi, genitori, bambini, cioè troviamo dei maggiori momenti di incontro e vediamo così che queste stesse cose che ci fanno stare tanto male noi e che conseguentemente ci fanno amplificare anche delle normali tappe evolutive dei bambini, forse anche parlandone fra di noi, proprio usando anche la parola, può essere utile. Allora, un consiglio invece per i bambini, quelli che dicono, sai, il mio bambino è un pacioccone, un patatone, lo picchiano tutti. Alberto, di solito i papà e le mamme danno consigli differenti. Veronica ci raccontava questo in pratica, no? Sì, la teoria di mio marito è a seguito di un'aggressione piuttosto violenta e traumatica del bambino è stata questa. Voi donne ragionate in un certo modo, insegnate la non violenza. Invece tra maschi si ragiona così. Tu mi picchi, io ti rispondo immediatamente. esattamente in pari misura, a questo punto o tu mi rispetti, quindi, e quindi rispettandomi o mi identifichi come il tuo nemico e quindi suddivisione di zone e non ci guardiamo in faccia, oppure mi identifichi come un tuo amico in quanto simile e quindi scatta la migliore amicizia del mondo. Sentiamo Alberto, ma cosa ci dice. Il patatone di per sé è un bambino che nasce con un temperamento molto tranquillo e io non glielo cambierei quel temperamento. La cosa che vorrei verificare è se all'interno di un conflitto quel bambino usa sempre il registro, il codice della passività, cioè sta lì e subisce, oppure un bambino che, pur essendo patatone, riesce ad essere attivo, cioè usa altri strumenti che non sono quelli della violenza o quelli del conflitto armato, ecco, per ribadire il suo ruolo. Una terza via d'uscita, che secondo me è sempre importante per bambini così piccoli, è comunque chiedere la mediazione di un adulto laddove ti senti molto esposto, molto vulnerabile e senti che ti potrebbe succedere qualcosa di male, ma qua siamo già nell'area del bullismo. Dario ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'opportunità. Ci racconti rapidamente. Rapidamente, io siamo una coppia giovane, relativamente, un unico figlio e bellissimo secondo noi. Ogni mattina io lo accompagno a scuola, poi torno la sera a casa. Sì. Mi capita che lui vuole le mie attenzioni, ma mi chiede sostanzialmente sempre il solo unico gioco, vuole combattere con me. Fare la lotta col papà. Della lotta col papà è un accanito sostenitore il dottor Franco Confalonieri, mio ospite fisso del venerdì, medico sportivo, e dice che la lotta riesce così a fare una sorta di ginnastica e permette soprattutto di prendere le misure con il nostro corpo. Alberto, ti coinvolgo nuovamente perché qua parliamo di papà. Sì o no la lotta? Credo che i bambini sono molto capaci di intercettare il maschile dal papà e il femminile dalle mamme, quindi va molto bene. Il problema è se è solo quella cosa lì. Il papà può aiutare il figlio a trovare altri stimoli, per esempio torniamo a casa adesso che arriverà finalmente la bella stagione, andiamo insieme a fare una gita in bicicletta. Quindi parola d'ordine, diversificare. E noi adesso ci trasferiamo in cucina e insieme a noi abbiamo Fabio Campoli, chef. Buongiorno. Buongiorno. Consulente di Rai 1 e presidente del Circolo dei Buon Gustai. Allora, tante volte torna la pace in famiglia, anche i bambini, prepariamo a loro qualcosa di buono, li coinvolgiamo a preparare magari un buon dolce, una crema, un gelato con qualche decorazione, ma oggi Fabio Campoli ha pensato per noi a delle ricette da preparare in coppia. Beh, sì, perché secondo me è benessere anche quello di stare in cucina assieme. E certo. Verso un modo differente di stare in casa in cucina e perché no cucinare a quattro mani. E le ricette di oggi, ne ho pensato una che secondo me per me è il quotidiano, perché noi in casa facciamo lo stesso mestiere e cuciniamo spesso insieme. Quindi la ricetta di oggi sono due paste, due spaghetti differenti, sì. Uno con noci e gamberi e uno con il radicchio, quindi ognuno può avere la sua padellina. In una padella fa un fondino con un pochino di olio, gamberi, e nell'altra fa olio, cipolla e radicchio, un pochino di vino rosso, si cuociono le paste, uno spaghetto ad esempio, sì. Poi se ne mette una porzione in quella di gamberi, una porzione in quella di radicchio e vino rosso, e al momento di comporla in a tavola ognuno metterà sul fondo un pochino dell'altra, e quindi noi mangeremo due piatti nella stessa ricetta, ma non uno accanto all'altro, mettendo sul fondo quello di radicchio più forte e sopra quello di gamberi. È un modo per condividere la cucina sicuramente. Ma assolutamente, insomma, l'amore non è bello se non è cucinarello. Yolanda e Veronica, allora stasera mi raccomando, sicuramente. Radicchio con vino rosso, gamberi e noci, una ricetta che potete trovare anche sul sito sulla pagina di Essere Benesse. Ringrazio le mie ospiti, la dottoressa Trinci, la dottoressa Micotti, per essere stata con noi, grazie. Ringrazio il papà di questa casa non è un albergo, nonché amico e medico, anche psicoterapeuta, e le nostre mamme, a cui diamo appuntamento il secondo martedì del prossimo mese, e siamo già ad aprile. Buona giornata.